contro il carcere che Radio Onda Rossa prepara. E poi c'è l'allegato, il quaderno è il numero 11. Perché appunto inizialmente l'agenda conteneva, oltre l'agenda vera e propria, anche dei testi scritti, e quindi era soltanto l'agenda. Poi si è pensato di dividere, perché mentre l'agenda, finito l'anno, in realtà non ha più tanta utilità, però invece il quaderno è un libricino, ha dentro degli scritti che hanno una validità permanente, e quindi si sono sdoppiati i due lavori. Entrambi i volumi, quindi l'agenda scarceranda più il quaderno, costano 12 euro. L'acquisto di questi due volumi, cioè della scarceranda più il quaderno, permette anche di sostenere le spese per quella grande quantità di scarceranda che inviamo nelle galere italiane, a quei detenuti, a quelle detenute che ne hanno fatto richiesta o ne faranno richiesta. Molti sono già arrivati, molte richieste di scarceranda, e noi tra qualche giorno, quindi chi ci ascolta dalle carceri sappia che tra qualche giorno cominceremo, tra subito diciamo, a inviarle in carcere a chi ce l'ha richieste. Chi non ce l'ha ancora richiesta e volesse richiederla, basta che invia una lettera o una cartolina a questo indirizzo, che è Radio Onda Rossa, Via De Volci 56 00185 Roma, e chiede l'invio di scarceranda. Basta che mette nome e cognome, il carcere di provenienza, l'indirizzo poi delle carceri lo sappiamo noi, tra l'altro è anche indicato in coda al quaderno. Dunque riepiloghiamo brevemente i contenuti di questa, l'agenda di quest'anno, e poi casomai in ogni puntata proveremo a leggere o a raccontare ciascun articolo che compone il quaderno numero 11. L'agenda è sempre più o meno come la stessa, cioè c'è l'agenda, ovviamente la copertina cambia sempre, quindi quando la vedrete sarà una novità, diciamo. L'agenda è fatta insomma, come un'agenda normale, tutti i giorni, ogni pagina due giorni, e poi intervallata da disegni anticarcerari, e in fondo ci sono le ricette evasive, che è un vecchio contenuto che da parecchio tempo ha quell'agenda, in cui così si scrivono delle ricette che possono essere fatte da chi sta dentro, ma anche da chi sta fuori. Però chi sta dentro, chi sta in carcere, le può fare utilizzando il materiale che esiste in carcere. In carcere non è che c'è tutto, non è che si può andare al mercato e fare gli acquisti necessari, è quello che ti passa l'amministrazione, la mensa e l'amministrazione, e quello che si può comprare alla spesa, quindi diciamo i cibi sono abbastanza pochi, scarsi, però con quella particolare, con quelle poche diciamo elementi diciamo da cucina, si possono realizzare delle interessanti cucine. E questa è l'agenda. Il quaderno quest'anno ha diversi, ovviamente come sempre, diversi articoli. Poi nella parte centrale ha i vostri scritti, cioè lettere o poesie giunte dal carcere, che abbiamo inserito qui, le lettere dalle varie carceri, da tutte le carceri. Considerate che mentre la Radio Onda Rossa viene seguita soltanto nell'area della provincia di Roma, poco più, poco meno, secondo le frequenze, se sono questa frequenza si è occupata da altri, comunque l'area in cui si riesce a sintonizzarci su Radio Onda Rossa è più o meno l'area della provincia di Roma. Però appunto il rapporto con le persone detenute si è esteso un po' in tutta Italia, perché appunto da quando si è cominciato a mandare, quindi considerate sono 16 anni fa, si è mandata l'agenda dentro il carcere, i detenuti tra loro si scrivono, ma non solo, c'è una grossa mobilità tra detenuti, i detenuti che vengono spostati per vari motivi da un carcere all'altro, per motivi per un processo, oppure perché il trasferimento dei detenuti è un'attività abbastanza continua che l'amministrazione penitenziaria, a cui l'amministrazione costringe i detenuti o le detenute, vengono spostati in continuazione per una serie di motivi legati in genere a questa fantomatica idea della sicurezza. Comunque questa, e quindi la notizia che esiste la scarceranda, la stessa scarceranda, ha fatto il giro di tutte le carceri d'Italia, praticamente si trova in ogni carcere d'Italia, portata appunto in mano dai detenuti che circolavano nelle galere italiane, e quindi le richieste ci vengono da tutte le carceri italiane, e così sì, anche in lettere, quindi troverete lettere provenienti da Volterra, da Saluzzo, da Tolmezzo, da Taranto, da tutte le parti, da Spoleto, eccetera, dal nord al sud di questo paese, delle carceri di questo paese. E quindi, e poi infine di questa, la parte finale di questo del quaderno numero 11, come ogni quaderno è corredato di notizie per ad uso dei detenuti, delle detenute, cioè una sorta di riassunto molto breve, schematico però utile, del regolamento penitenziario, perché possa essere utilizzato da chi sta in carcere per, diciamo, ottenere quelle cose che altrimenti gli vengono negate, perché come sapete la gran parte delle possibilità non realizzate dai detenuti è perché la non conoscenza da parte loro del regolamento penitenziario, perché non viene diffuso. O considerate che questa è l'assurdità, non è un'assurdità, il carcere è questo, la differenza tra ciò che si dice e la realtà del carcere è stato l'elemento centrale fin dall'inizio. Il carcere è nato su questa ambiguità, si dice c'è alcune cose nel carcere, però poi la pratica è molto diversa. Ogni regolamento penitenziario finisce con questa frase: il presente regolamento dovrà essere affisso in ogni carcere per essere consultato da detenuti e detenute. Questo dice, in realtà non c'è mai, cioè, i detenuti ci scrivono: ma che dice questo regolamento? Dico: ma non c'è in carcere, ne scriviamo, non c'è, non potete consultarlo, dovrebbe stare nella biblioteca, ma addirittura nei corridoi, appeso a delle, con dei laccetti, perché non venga portato via, però nel corridoio essere consultato, dovrebbe essere tante copie, non c'è in nessuna carcere, non per un problema di spesa, quanto volete che costi un regolamento penitenziario di alcune decine di pagine stampato e diffuso nelle carceri, non è in costo, è perché la logica del carcere è questo: meno si sa, meno il detenuto sa, e ovviamente meno richiede alcuni propri diritti, che poi non sono diritti ma sono conquiste fatte dalle precedenti generazioni di carcerati e di carcerate per mezzo della lotta organizzata. E che quelle cose, però, che appunto, come avviene in tutte le altre parti del mondo sociale, quindi nel posto di lavoro, in fabbrica, dovunque, negli uffici, nei quartieri, cercano di toglierti ciò che i proletari hanno conquistato con la lotta. E questo è l'andazzo, la realtà è questa. Oggi poi in questa fase c'è un pesante attacco dei poteri forti, governi, amministrazioni di tutti i tipi, padronato privato o pubblico, di togliere le conquiste che i lavoratori, i proletari si sono conquistati in decenni di lotta. Togliere perché? Per aumentare lo sfruttamento, i profitti, la possibilità di ottenere cose con un costo minore. Questo è l'obiettivo dei padroni pubblici e privati, dei governi, delle istituzioni, delle amministrazioni. E a questo ovviamente i proletari dovrebbero opporsi. La conoscenza di quelle che sono i propri diritti conquistati dalla lotta è un fatto importante, quindi la conoscenza di questo può essere utile. Allora, dunque, leggiamovi, fa un po' ridere, dunque, vi leggiamo il sommario, chiaramente il quaderno, cioè la prima pagina è rivolta a Vito, il compagno Vito, che per tanti anni ha curato, da sempre, per detto, ha curato tutta la grafica, lo stampaggio della grafica, manifesti, volantini, della stessa Scarceranda che qui abbiamo, che Radio Onda Rossa ha prodotto, ma anche altre realtà di movimento. Vito aveva una tipografia che appunto era messa al servizio del movimento. Purtroppo è morto gli ultimi giorni di ottobre, tra il 26 e il 27 ottobre, e quindi c'è un ricordo nella prima pagina del quaderno. Poi c'è l'indice del quaderno stesso, c'è un'introduzione del quaderno, poi c'è un'altra pagina, A che serve la galera, di Ascanio Celestini, poi il terzo articolo, nuovi orientamenti in tema di controllo sociale. Scusate, la tosse ormai ci accompagnerà per tutto l'inverno, anche se non fa freddo, ma queste giornate come oggi sono molto umide, quindi provocano un po' di raucedine alla gola per chi è soggetto a raffreddori come me comunque. E quindi stavamo nuovi orientamenti in tema di controllo sociale a pagina 10, poi come sfuggire al controllo informatico, quindi una novità in qualche modo, non proprio novità, ne avevamo parlato anche in altri quaderni, però comunque da poco c'è questo nuovo terreno in cui si misura il controllo da parte sempre dello Stato, delle amministrazioni, dei privati, di ciò che viaggia per via informatica e della necessità quindi di sfuggire o difendersi da questo controllo. Poi c'è il DASPO, DASPO a chi? Una spiegazione di che cosa è il DASPO è che questa forma di invalidazione sociale che tende sempre più ad affermarsi in varie forme, ma è un tentativo di esercitare il controllo sociale. Questo è questo ragionamento, diciamo, è sviluppato anche all'interno, in alcuni articoli all'interno del quaderno, e poi è il dibattito che oggi è in corso nel movimento, che dovrebbe essere ancora più approfondito, ossia non solo carcere e non sempre carcere, perché lo vedremo anche tra un po' nei nuovi provvedimenti che ha fatto il governo, il carcere costa troppo, i processi costano troppo e soprattutto non raggiungono lo scopo di esercitare un controllo sociale. Il carcere era nato per controllo individuale delle persone che non amavano il lavoro, i renitenti al lavoro in qualche modo, per disciplinare le persone, per renderle abili al lavoro. Esercitava deterrenza rispetto a chi voleva trasgredire la legge. Oggi non è più quello l'obiettivo, il compito dei sistemi di controllo, quindi dello Stato, dei governi, delle amministrazioni, ma è quello di cercare di portare il controllo nei territori dove questa gente si aggrega, conosce, fa conoscenze e si prepara quindi ad attivarsi per fare o conflitto sociale oppure anche semplice trasgressione o disordine sociale, come lo chiamano loro, cioè trasgressione della legge, e soprattutto rendere incapaci queste persone di fare quello che appunto vorrebbero fare, cioè non tanto metterle in galera, ma metterle in incapacitazione. Questo è proprio il termine che usano loro, i criminali. L'incapacitazione è un meccanismo con cui dice: io non ti metto in galera perché appunto sei avvezzo a fare piccoli reati, però ti rendo impossibile la frequentazione di quegli ambienti all'interno dei quali collettivizzazione dei quali commetti questi reati. E quindi il DASPO è una di queste, forse è nato per primo, non proprio per primo, ci sono degli elementi che sono stati tentati negli Stati Uniti d'America quando c'era la lotta contro il Black Panther negli Stati Uniti d'America. Questo poi è stato abbandonato in qualche modo, in Europa però è abbastanza nuovo ed è stato sperimentato in primo luogo nei confronti delle tifoserie ultra. Il DASPO quindi dice: i giorni che c'è la partita tu devi andare a firmare al commissariato, quindi ti rendo incapace di frequentare gli ambienti ultra. Ecco, questo meccanismo svolto all'insegna della incapacitazione sta diffondendosi in tutti i tipi di controllo sociale quando non è previsto il carcere. Cioè io non ti metto in carcere, però ti metto controllo, firma oppure impossibilità di muoverti dal domicilio o dall'ambiente dove stai o dal quartiere dove stai, o addirittura non poter andare in un altro posto. Cioè i meccanismi sono tantissimi e tutti sono volti all'insegna dell'incapacitazione, ti rendo incapace di fare quello che vorresti fare, e questo è il meccanismo partendo dal DASPO. E poi e continuano a chiamarli errori giudiziari, è un altro ragionamento rispetto a questa gran massa di errori giudiziari che se ne sono fatti tanti, se ne continuano a fare tanti. Considerate che hanno fatto 4 milioni sarebbero le persone negli ultimi 50 anni incarcerate ingiustamente, quindi sì, errori giudiziari, però insomma hanno tolto la vita a gran parte delle persone. E poi poi c'è tutta la parte centrale prodotta da voi, lettere, poesie, raccontini che ci avete mandato dal carcere sono qui riprodotte. Infine, appunto, istruzioni per chi sta in carcere. Questa è l'agenda di il quaderno numero 11, agenda numero 16 di questo del 2016, appunto, di questo anno, che verrà data, verrà inviata a chi ne ha fatto richiesta in carcere. Quindi, se non l'avete fatto dal carcere, inviate una lettera, una cartolina qui. Ripetiamo, l'indirizzo è Radio Onda Rossa, via dei Volci 56 00185, Roma. Se invece state fuori, passate in radio, o tra qualche giorno le troverete già ci sono in alcune biblioteche di movimento, librerie di movimento, dove potrete acquistarle tranquillamente, oltre che nelle iniziative della radio. Bene, adesso ci fermiamo qui e tra un po' passiamo oltre. Allora, diciamo, passiamo a ciò che bolle in pentola, ciò che cosa sta succedendo nel mondo carcerario. Dunque, lo scorso anno, ricordate, è stata, un anno e mezzo fa, ad aprile del 2014, è stata varata all'interno di quel quelle misure legislative, pacchetti interi di misure legislative che sono stati chiamati in generale i decreti svuota carceri. Sono stati infatti i decreti d'urgenza per diminuire un po' la presenza in carcere, perché lo Stato italiano aveva ricevuto una pesante multa dalla Corte europea perché il carcere era troppo sovraffollato, ma anche per tanti altri motivi, perché i processi erano troppo lunghi, perché la detenzione di persone non ancora condannate era troppo alta, il 40% rispetto a una media europea del 15%, e insomma per tanti altri motivi. Insomma, la non applicazione della Carta dei diritti dell'uomo per quanto riguarda le persone private della libertà, che pure l'Italia aveva firmato. Quindi la grossa multa dell'Europa, e poi l'Europa aveva detto che ogni singolo detenuto o detenuta, se segnalava il periodo in cui era stato tenuto in condizioni non accettabili, doveva essere rimborsato. Per venire meno a tutte queste cose sono stati preparati una serie di decreti svuota carcere con cui è diminuita abbastanza la presenza in carcere. Ma non solo, poi che cosa è successo? Che dentro questi pacchetti sono state fatte una serie di leggi. Allora vediamole, dunque vediamole subito un attimo. Il computer adesso fa un po' le bizze, vediamo un po' perché, eccola qua. Allora, i primi, dentro questi provvedimenti è stata fatta una notevole, come dire, give me a ticket on your plane. I ain't the time to take no fast train. The longer days are gone, I'll be right home. But baby, follow me a letter. I don't care how much money I've got to spend. I'm gonna buy home again. The lonely days are gone, I'll be right home. Oh baby, follow me a letter. She wrote me a letter, said it's a good letter, with all the love and more. Listen to me, mister. Allora ecco, riprendiamo 15 e 28. Dunque, diciamo, all'interno dei decreti svuota carceri sono stati fatti anche dei pacchetti di legge quadro. Allora, leggi quadro sono quelle che in genere sono leggi che danno al governo la delega per legiferare all'interno di quella cornice stabilita dalla legge. Questo è anche per accelerare i lavori, e difatti il 28 aprile dello scorso anno, del 2014, è stata fatta la legge 28 che così titolava: deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili. Questo era il quadro. Ovviamente la legge è un po' più lunga, comunque la potete trovare, la legge 28 aprile 2014 in internet c'è. e praticamente dava indicazioni al governo di poter fare decreti legislativi, decreti che diventavano operanti direttamente perché rispettavano quella legge quadro all'interno del quale prendevano la loro forza di legge. Bene, queste leggi puntano, questa delega riguarda appunto la riforma del sistema sanzionatorio, in particolare trasformare pene detentive in pene non carcerarie, ed è quello che abbiamo detto più volte, stiamo seguendo questo spostamento tra pene carcerarie e pene non carcerarie, che si tratta questo percorso viaggia sulla depenalizzazione di alcuni reati e la trasformazione in illeciti amministrativi, e la differenza è che il procedimento penale prevede primo grado, secondo grado e Cassazione, quindi un procedimento molto lungo e costoso. L'illecito amministrativo è immediatamente esigibile, cioè è una multa che non facendo parte del codice penale ha solo un grado, una sanzione amministrativa è immediatamente esigibile da parte del diciamo dello Stato, e questo fa risparmiare spese processuali, anche spese carcerarie nel caso che va, e poi soprattutto permette appunto la incamerare la sanzione amministrativa immediatamente. Allora, anche perché il ragionamento che fanno coloro che hanno steso questa legge, no, che è un po' l'equipe che sta alle direzioni di Andrea Orlando, l'attuale ministro della giustizia, che sta muovendosi in questa direzione, cioè di depenalizzare alcuni piccoli reati e di trasformarli in sanzioni amministrative. E questa ed è stata fatta la prima, questa qui. Allora, si tratta vengono trasformate in sanzione amministrativa con da 5 a 15 mila euro le contravvenzioni punite con l'arresto fino a 6 mesi. Altresì, trasformati in sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro le contravvenzioni punite con l'arresto fino a un anno, e da 10.000 a 50.000 euro per i delitti e le contravvenzioni puniti con pena detentiva superiore a un anno. Perché questa cosa? No? Per una serie di motivi, però chi ha steso questa legge ha portato il quadro che per questi, cioè l'arresto fino a 6 mesi, fino a un anno, superiore a un anno, ma sempre per piccole trasgressioni, erano molto onerose perché permettevano appunto il primo grado, il secondo grado, la Cassazione, a volte c'era anche il passaggio in carcere per pochi giorni, ma poi ovviamente l'uscita, perché per questi reati non è previsto il carcere fino a 6 mesi, fino a un anno, ma anche fino a 4 anni, e quindi era soltanto un fastidio, cioè per il costo del carcere. Inoltre la stessa sanzione legata al procedimento penale aveva le stesse caratteristiche, cioè primo grado, secondo grado, Cassazione, quindi veniva riscossa dallo Stato tantissimo tempo dopo. In questo modo si accelera, questa è la relazione che dice la giustificazione di questa legge, è un decreto legislativo però a forza di legge, perché sta dentro appunto la legge quadro, la 28 aprile 2014. Permette la riscossione di queste sanzioni abbastanza immediatamente, in tempi di, e poi la gran parte di queste invece quando erano penali non arrivavano a soluzione in tempi legge, cioè erano inchiodate in tempi per cui venivano completamente annullate alla fine del percorso, perché avevano superato i tempi di prescrizione. Quasi la gran parte, dice, superavano i tempi di prescrizione, per cui cadevano nel vuoto. Invece, trasformando le sanzioni amministrative, lo Stato le può diventano immediatamente esigibili e le può riscuotere, quindi a fronte di una spesa enorme ci sarà un maggior introito. Questa è la spiegazione di chi ha esteso questo decreto legislativo, che di fatto diventa legge, insomma, no? Allora, tra l'altro un altro elemento che spiega questa necessità di questa legge è che appunto il diritto penale italiano è eccessivamente esteso. Praticamente dicono che ci sono oltre 50.000 i reati previsti dall'ordinamento attuale, e sono eccessivi, perché e difatti già c'è stata la legge sulla tenuità del fatto, cioè i fatti tenui, piccoli, commessi la prima volta non sono anch'essi depenalizzati. E alcuni reati sono rimasti fuori, per esempio le eccezioni sono quelle relative alla edilizia e urbanistica, cioè violazione di norme urbanistiche, le bevande alcoliche, le devastazioni ambientali su del paesaggio e il gioco d'azzardo e anche armi esplosive, ma ovviamente armi esplosive è difficile che rientrano dentro queste piccole sanzioni. Comunque questi sono esclusi. L'altra cosa che molti speravano che venisse depenalizzata, invece non lo è stato, è il reato di clandestinità, quel famoso obbrobrio della legge Bossi-Fini, che rimane un reato trattato penalmente all'interno del codice penale. Su questo, pensate, su questo il Consiglio dei Ministri, quindi il governo attualmente in carica, non ha trovato la unità per farlo. Ovviamente il gruppo di Alfano si è opposto e adesso deciderà il Parlamento. Quindi questa parte qui, se depenalizzare oppure no il reato di clandestinità, cioè quella parte sostanziale della legge Bossi-Fini che aveva criminalizzato l'immigrazione e che ha prodotto tutta quella, anche quel razzismo, quella xenofobia, quella sottocultura abbastanza miserabile che purtroppo è dilagata in questo paese grazie anche alla Bossi-Fini, passare attraverso il vaglio del Parlamento, mentre le altre cose, quella depenalizzazione, cioè la trasformazione di alcuni piccoli reati in sanzioni amministrative, sono già legge. Il Parlamento quelle altre ne prenderà atto, sul reato di clandestinità dovrà pronunciarsi. Non sappiamo che succederà, il governo si è spaccato, praticamente il gruppo di Alfano ha detto no alla depenalizzazione del reato di clandestinità e quindi dovrà attendere. Ecco, questo meccanismo unito a quell'altri, gli altri due sostanzialmente, quello della tenuità del fatto e quello che i reati sotto a 4 anni, per cui è prevista è previsto un massimale non superiore a 5 anni, non prevedono il carcere ma altre forme detentive, sempre detentive, che rimangono arresti domiciliari o detenzione domiciliare o altre cose. Ecco, queste a fianco di quelle se c'è questa addirittura depenalizza, mentre l'altra, per esempio il reato fino a 5 anni, non prevede il carcere ma passerà attraverso tutti i gradi di giudizio, primo grado, secondo grado, Cassazione. Poi se prendi, quando è condannato a 4 anni, a 3 anni, a 2 anni, non andrà in carcere ma in detenzione domiciliare o in messa alla prova e altre cose, o in affidamento in prova ai servizi sociali, mentre invece questi piccoli reati che poi verranno, adesso li indica soltanto quelli appunto piccoli, anche questi tenui, poi ovviamente dovranno cercare di individuarli per non permettere questa variazione che già c'è nei due precedenti decreti. Tutti questi vengono addirittura depenalizzati, cioè diventeranno sanzioni amministrative immediatamente riscuotibili, perché quando la sanzione amministrativa è definitiva prevede un solo grado o non c'è l'appello, men che meno la Cassazione, quindi diventa esigibile. L'obiettivo di questa riforma, spiega il Ministero della Giustizia che l'ha scritto e che poi il Consiglio dei Ministri ha approvato, è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità, anche questi, in illeciti amministrativi, e che perché erano appunto quelli fino a 6 mesi, fino a 1 anno, poco più di 1 anno, che comunque non vedevano il carcere. Si sviluppavano attraverso il percorso penale, quindi con questa pesantezza e costo anche del procedimento, però comunque non andavano in carcere, perché appunto c'è già la precedente legge che dice un reato fino a 5 anni, comunque anche se vieni condannato non vai a finire in carcere, quindi dice tanto vale, li abbiamo trasformati in illeciti amministrativi, quindi in sanzioni che possiamo riscuotere immediatamente. E quindi lo dice proprio, no? Invece amministrativi, sia per rendere più effettiva e incisiva la sanzione, perché la riscuotiamo subito, assicurando nel contempo una più veloce repressione dei reati più gravi, perché diciamo togliendo quel carico di lavoro dei tribunali, questi si potranno orientare ai reati più gravi e questi piccoli vengono lasciati alla giustizia amministrativa, che è più agile, più veloce. Questo è il quadro dello schema. Questo va, come vedete, va molto nel senso di quello che dicevamo. Poi ci sono anche articoli della stampa che dicono erano reati di minima entità quelli che secondo il codice penale si possono sanzionare non con il carcere ma con un'ammenda. Il governo però li depenalizza trasformando una sanzione pecuniaria in una multa sicura, perché l'altra era aleatoria, perché seguiva comunque il percorso del diritto penale, ossia appunto i gradi di giudizio, tanti eccetera. Questo lo dice la stampa. Il trasferimento dal versante penale a quello amministrativo, questo l'ha spiegato il ministro Orlando, ha l'obiettivo di sanzioni più rapide, più incisive ed efficaci, che produrranno quindi entrate più veloci allo Stato, quindi soldi, e che vengono effettivamente incassate dallo Stato, non quelle che appunto seguono le multe fatte per sanzione penale, devono aspettare la Cassazione per essere esigibili allo Stato, quindi vanno in tempi lunghissimi, spesso finiscono appunto nei termini della prescrizione, quindi diventano nulla. Questo è il quadro. Chi si oppone a questa, la solita Lega Nord, perché dice ecco qua, lo Stato dà un aiuto ai criminali e ai delinquenti, però per ora solo la Lega, quindi probabilmente passerà tranquillamente. Non si sa invece quello della depenalizzazione immigrazione clandestina. Quello non si sa, non è passato nel governo, alle Camere non sappiamo come sta la situazione, ma sicuramente non è brillante. Resta quindi il reato di clandestinità. Alfano canta vittoria, questo lo scrive anche l'Unità, tutti i giornali di ieri, l'NCD dice la bloccata e quindi passerà al vaglio delle Camere per vedere se c'è la volontà. Considerate che su questa cosa, sul reato di clandestinità, ricordate, è già intervenuto l'Europa dicendo che è una boiata, eppure non è che sono filo immigrazione in Europa, però sul piano giuridico non può diventare un reato, un atteggiamento, cioè uno status, cioè l'immigrato è uno status, uno dice io sono immigrato, cioè non è che fa delle cose, non c'è il reato, non c'è il dolo, uno che immigra non c'è il dolo come uno che ruba una mela, anche se è ridicolo, nella mela c'è un dolo, io mi voglio appropriare di una mela che non è mia, ma uno che si sposta, che fa l'attività più antica e la più consona all'essere umano è tale, siamo questi qui perché da sempre ci siamo mossi, siamo persone mobili, mai nessun gruppo di umani è rimasto fermo nel territorio, mai, non è mai successo, siamo proprio mobili, nomadi per struttura. Questa l'Homo sapiens, questi che siamo noi, siamo nomadi per definizione, per costituzione, per struttura. Siamo sempre mossi e continueremo a muoverci. Certo, gli stati, le frontiere, tutta questa porcheria messa in piedi recentemente e vogliono impedire la pratica dell'attività più antica, più vecchia e più umana che c'è al mondo, che è, oltre a quella di mangiare e dormire, quella di muoversi per cercare terreni, territori, attività e comunque mille, anche per piacere, per trovare appunto altri luoghi più consoni alla propria esistenza. Questa è la natura dell'uomo. Le frontiere, gli stati, le nazioni sono ovviamente automaticamente antiumane, ma questo non lo dico io, lo dice tutta la miglior tentativi di analisi fatti nel corso dei secoli. Va bene, allora poi dice, ecco, sul reato di clandestinità Orlando dice abbiamo lasciato aperta la porta per far decidere al Parlamento, e il cavolo, cioè poteva prendere, evidentemente non hanno avuto forza la parte del PD, diciamo, che doveva essere d'accordo, almeno così dicevano, per l'abolizione del reato di clandestinità, non hanno trovato l'accordo col il gruppo di Alfano, l'NCD, ma probabilmente, questo è un sospetto, anche all'interno dell'area del PD non tutti erano d'accordo, perché altrimenti avrebbe fatto un'azione di forza, siccome l'NCD sono poche persone e il Consiglio dei Ministri avrebbe fatto propria la depenalizzazione del reato di clandestinità, e invece non è successo, quindi adesso dice diamo tutto al Parlamento, ma sarà un po' un problema, vedremo che faranno gli altri gruppi. Vabbè, insomma, probabilmente Forza Italia non voterà a favore, quindi i numeri rischiano di non esserci, vedremo che cosa succederà. Allora, 15:48, veniamo a un fatto che da tempo trattiamo in questa trasmissione. Le morti in carcere, sapete, è un problema che pesantemente colpisce chiunque tiene la vita umana, e soprattutto perché la vede togliere nel modo più orribile, cioè togliendo la libertà. Si muore in carcere, si muore tanto in carcere, si muore troppo. Qui il caso di questo ragazzo Eneas, un ragazzo di 29 anni che il 25 settembre è morto nel carcere di Pesaro, ha veramente preso, cioè, riscosso l'attenzione, non per ignorare gli altri, ma anzi come spunto per riaffrontare il tema dei suicidi in carcere, delle morti in carcere, che spesso appunto vengono archiviate suicidio senza che nessuno vada a vedere più a fondo, e senza che soprattutto si metta in discussione, comunque sia stata materialmente provocata la morte, metta in discussione gli strumenti, i dispositivi, i meccanismi che producono la morte in carcere. Ecco, e il caso di Enes è abbastanza sintomatico. Questo ragazzo molto conosciuto sia da compagni e compagne in quel di Pesaro sia qui a Roma, era una persona molto viva, vivace, che amava la vita, amava voler vivere. Pensate, è stato sbattuto in carcere per una cosa per la quale non si va in carcere, cioè aveva problemi come tutte le persone immigrate, anche se lui era da parecchi decenni, stava da tanto tempo, stava in Italia, però aveva sempre problemi col permesso di soggiorno, e una volta l'hanno fermato le guardie e lui ha dato delle indicazioni false, cioè ha detto un altro nome, e poi ha cercato di sottrarsi alla cosa scappando, una cosa normale, niente, non ha toccato nessuno, non ha fatto male a nessuno, è stato arrestato. È un reato quello per il quale infatti è stato condannato a un anno, ma anche troppo, comunque un anno, e per i reati appunto di un anno, come abbiamo più volte detto, non è previsto il carcere oggi dalle leggi italiane, e invece l'hanno messo in carcere, non so quale gabola hanno voluto mettere in campo per tenerlo dentro, quindi è perché non era come dire, non l'aspettava il carcere per una stupidaggine così, insomma ha cominciato, non accettava il carcere, non l'accetta nessuno, men che meno lo accetta chi si vede incarcerato per una cosa assurda, perché non è nemmeno prevista dalle leggi. E quindi vabbè, Neas stava male in questo carcere, è entrato in conflitto con le guardie, con la struttura stessa del carcere, gli venivano, è stato anche vessato, cioè venivano vietati i colloqui, le cose che la madre gli portava o che i familiari gli portavano, gli impedivano di fare colloqui con altre persone, insomma, abbastanza tartassato in carcere. Per un mese è stato trasferito anche in una infermeria psichiatrica, quindi l'hanno voluto marchiare per come tossicodipendente, come persona disabile di mente, cosa non vera, un ragazzo che amava la vita e voleva continuare a vivere, insomma, per tutti questi motivi. E improvvisamente viene arriva la notizia da dentro al carcere che dice: questo ragazzo Enea si è suicidato. Ovviamente i suoi amici, le sue amiche, le persone che lo conoscevano non hanno accettato questa cosa, e quindi si è messo in moto un meccanismo di critica al carcere, in due meccanismi: uno per sapere esattamente come è andata la storia, quindi mettere in moto un'inchiesta perché venisse alla luce con chiarezza come è morto Enes, quali i meccanismi che hanno indotto alla morte Enes, e l'altro di mettere sotto critica il sistema carcerario perché produce devastazioni talmente forti che possono portare al suicidio. Quindi le due cose: uno, conoscere esattamente come è morto Enes, e l'altro è mettere sotto forte critica, cosa che oggi in questo paese non c'è più. Si usano a volte slogan troppo semplicistici sul carcere che non mettono in luce una critica forte, feroce e ficcante della struttura carceraria, che è incompatibile con la vita in quest'epoca e in queste terre, e quindi il carcere va messo sotto forte critica per smantellarlo definitivamente, per levarselo da torno. Quindi il caso di Enes rimane un elemento centrale, non per soffermarsi solo sulla sua morte, ma per affrontare tutte le morti che avvengono in carcere, che sono tante. Considerate, lo diremo fino a stancarci, era stato quando il numero dei carcerari e dei morti in carcere aumentava, si era arrivati a 60 morti, 60 suicidi e altri morti in totale negli anni intorno al 2007, 2008, 2009, 2010 si aggiravano su 200 morti in carcere, di cui una sessantina di suicidi, troppo alto, e molti dicevano la colpa è del sovraffollamento, i detenuti stanno male, ammucchiati nelle celle, sarà quello. Il sovraffollamento in qualche modo è cessato, non è più a quei livelli così terribili, non è più i 69.000 del 2011-2010, si è scesi a 53-54.000, quindi l'ascesa è notevole, e tuttavia le morti in carcere continuano. Quindi vuol dire che non è il sovraffollamento il motore, il motivo principale delle morti in carcere, è un altro, e la non volontà da parte di tutti, ma proprio di tutti, di voler andare a cercare il motivo centrale che porta alla devastazione delle persone buttate in carcere, quello che è la mancanza di coscienza di tutta la popolazione di questo paese rispetto al degrado del carcere. Ecco, e quindi si vuole ribaltare e rimettere in piedi invece una forte critica del carcere partendo da questo fatto. Quindi all'interno delle iniziative già molte sono state fatte, si discute di carcere, si affrontano i temi, si cerca di costruire strutture in grado di sostenere chi sta dentro. Bene, per tutto questo domenica prossima, domenica 22, ci sarà appunto un presidio sotto il carcere di Pesaro, che appunto è quello che ha visto, forse provocato, la morte di Eneas. L'appuntamento è domenica 22 novembre alle ore 14 sotto il carcere di Pesaro, che si trova in località Villa Fastigi, un po' fuori Pesaro, qualche chilometro fuori Pesaro. Il volantino dice: a Eneas volato via combattendo contro il carcere, perché di carcere non si muoia più e nemmeno di carcere si viva. Presidio a Villa Fastigi, carcere di Pesaro, 22 novembre, ore 14. Da Roma, ovviamente verranno da tutte le parti d'Italia, da Roma si sono preparati dei pullman per andare appunto a Pesaro, che partiranno la domenica mattina alle 7.30 a Largo Preneste. Quindi chi vuole andare a Largo, si faccia trovare a domenica mattina un po' prima delle 7.30 a Largo Preneste, e da lì può prendere il pullman a prezzi ridotti che arriva direttamente al carcere di Pesaro. E il ritorno partirà da Pesaro alle 19 e quindi in serata si arriverà a Roma. Questo è il quadro. Noi veramente bisogna prendere come obiettivo quello che di carcere non si muova più e nemmeno di carcere si viva, e rimettere sotto feroce critica il sistema carcerario. E dunque stringiamo questo stacco musicale, perché sono le 15.57, quindi ci avviciniamo alla chiusura, e volevamo parlare, anche se a volo d'angelo, di un altro problema molto molto grave, ed è quello che diciamo sollevato dagli ultimi fatti successi e dalla un progetto di legge della Lega presentato alle Camere per ampliare la cosiddetta legittima difesa, cioè la possibilità di sparare a un ladro che viene a rubarti addosso, e questo diventa un diritto, far diventare il diritto lo sparare, uccidere una persona che trovi a rubare nei tuoi luoghi di vita. È una cosa ovviamente vergognosa, perché insomma in genere, tra l'altro, sono persone, come avete visto, non armate. Tra l'altro questa cosa diventa appunto il Far West. E questa, la legittima difesa, era già stata cambiata nel 2006, peggiorata, cioè allargata la possibilità di sparare a un eventuale ladro. Nel 2006, quando ci fu il passaggio a Palazzo Chigi, quindi alla presidenza del Consiglio, tra Berlusconi e Prodi, ebbene, la legge 59 introdusse la cosiddetta legittima difesa domiciliare, cioè le persone, qua, se tu individui, c'è una persona che entra nel tuo domicilio, puoi sparargli abbastanza tranquillamente senza incorrere in eccesso di legittima difesa. Poi però, questa è una legge orribile, era già bruttissima, per fortuna la Cassazione è intervenuta poi con delle sentenze e nell'anno successivo, nel 2007, con una pronuncia della Suprema Corte, ha detto che l'ingresso fraudolento o clandestino nella dimora dell'aggredito fa scattare la legittima difesa, ma questa deve essere proporzionale, cioè la legittima difesa deve essere proporzionale all'aggressione. Se entra uno armato puoi anche spararli, ma se entra uno disarmato non puoi spararli, se no incorri nel reato di eccesso di legittima difesa. Questa ha corretto una cosa, perché non era questa legge, la 59, fatta in quel periodo tremendo, quando appunto c'era l'alternanza tra Berlusconi e Prodi, vabbè, insomma, ma non perché adesso sia meglio, insomma, che la Cassazione aveva in qualche modo ritoccato, perché era una legge, la 59, tremenda, appunto dava libertà di uccidere. Adesso la Lega ha presentato un'altra cosa analoga, addirittura più disponibile, cioè non c'è più eccesso di legittima difesa, spari a una persona che viene nel tuo domicilio è quasi diventato un diritto. E questa cosa, vedremo, è stata presentata dalla Lega, Forza Italia forse sarà d'accordo,